nella barrica, ha cominciato a ingentilirsi e a presentare così, caratteristiche interessanti. L'attesa poi alla fine è durata 3 anni, dopodiché la birra ha un equilibrio, una facile beva, un equilibrio che è così un po' sopra la follia, perché comunque non ha le caratteristiche di una birra canonica. Qui troviamo come si chiama, acidità dovute al vino che è stato nella barrica, dovute ai Brettanomyces, quindi lieviti selvaggi cosiddetti, batteri lattici, il tocco del legno della botte, insomma, tutte queste cose che potrebbero di per sé, ognuna di esse, essere dei difetti, si sono mescolate, si sono armonizzate e hanno dato un equilibrio così anche molto delicato, volendo dire. Quindi, se vogliamo, una birra è nata quasi da un errore, no? Sì, la verità semplice è quella, non c'è stato uno studio, poi dopo sono venuti sul campo degli accorgimenti pratici, tipo, non so, fare la cotta in una certa stagione, che è questa, poi quella invernale, mettere nelle barrique, movimentare le barrique nella stagione più fredda, quindi anche l'imbottigliamento viene fatto nella stagione invernale, questo per evitare troppe contaminazioni da parte dei batteri acetici che sono molto più attivi nel periodo caldo, quindi insomma poi ci sono stati tanti accorgimenti, però all'inizio come si dice, della birra, la nascita viene da un errore, non voluto, una contaminazione casuale. Ecco. Quindi, in sostanza, nella seconda riproduzione avete quasi dovuto ricreare le condizioni dello stesso errore? Sì, come succede spesso, poi quando le cose nascono per caso non è facile come dire, ripeterle, no? Fare le stesse cose, perché è stato appunto una casualità. E ora sappiamo, abbiamo imparato che lavorando il mosto in un certo modo, che sarebbe un modo tra virgolette sbagliato, se uno vuole fare, che ne so, una blonde, una pils, no? Favorisce l'azione di certi microrganismi piuttosto che di altri, quindi così favorisce la mummificazione della birra nel mio caso. Above the flame, oh, angels had I had children. Oh, save what you can save. Questo è Birradio, io sono Tony Manzi e con noi al telefono Riccardo Franzosi del birrificio Montegioco. Grazie Riccardo per essere ancora con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti quanti. Ecco, molti pensano che dopo numerosi riconoscimenti, insomma, aumenti sensibilmente non solo la popolarità, ma anche i contatti e, come ti dicevo anche prima di iniziare l'intervista, anche le rotture di scatole, tipo le interviste del sottoscritto, insomma, più o meno. Tu più o meno che ne pensi, al di là della nostra chiacchierata? Effettivamente, insomma, dopo questi riconoscimenti, dopo la ribalta di media, insomma, cambia qualcosa? Si hanno più contatti, si hanno più richieste, più telefonate o no?